Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Luis Enrique, Zeman, non vi viene mai la voglia di un allenatore normale? Scusa, non ho capito. Scudetto in francese, come lo traducete? La vittoria del titolo? Non c'è una traduzione. Scusa che non capito, c'è un'altra domanda, non ho capito la domanda. I'm friends with the monster, the sun in my bed. Vucinic ha spazio ancora, Vucinic allarga, Vidal! Yes, beggars can't be choosy. Wanted to receive attention. Troppo Madonna tiro. Bradley! E la Roma passa con Michael Bradley. Entra dalla panchina. Blocca il match. Attenzione, Tevez. Può andare col destro. Dribbling. Tevez! Carlos Tevez! Si inventa il quinto gol in campionato. Jorginho, punta Antonsson. Jorginho, va via! Jorginho! Jorginho! Un gol meraviglioso di Jorginho! Tutti convocati. Hai sotto mano un orologio, carissimo Carlo Genta, buon pomeriggio. Ce l'ho, 17.05. Quanto manca? Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Ciao Carlo, 3 ore e 40 minuti, 800 24 00 24. Se volete raccontarci anche la vostra vigilia di questo Juventus-Roma, che oggi in tanti scrivono partita che vale lo scudetto, mezzo scudetto, più di mezzo scudetto, non lo so, fate voi, comunque raccontatecela, 800 24 00 24. Mandateci anche i vostri pronostici, perché noi raccogliamo tutto e poi domani all'ascoltatore che si è avvicinato di più regaliamo l'apertura di tutti i convocati alle 14. Potete dircelo al telefono, potete scrivercelo 349-238-6666 oppure su Twitter @ tutti convocati, mandate un fax, fate quello che volete, insomma, però mandateci i vostri pronostici. Le ultime da Torino, Carlo, il profilo Twitter della Roma ha paragonato oggi Juventus Roma 1-2 gennaio 2010 a Italia-Germania 4-3, la partita dell'Azzeca. Così. No, ha sbagliato. È sbagliato anche se secondo me la valenza, cioè il peso specifico è più o meno lo stesso, cioè almeno per una delle due è un playoff, è uno shootout, solo che vale soltanto per la Roma. Se la Roma perde è fuori, ok? Se la Roma perde siamo al 5 gennaio e questa sera il campionato è finito. Se la Roma vince tiene in vita il campionato, è chiaro, non, la Juventus conserva i suoi punti di vantaggio che sono tanti. Però direi che è una partita che è determinante per una soltanto, cioè per la Roma. E per il campionato vale soltanto per la Roma, non così tanto per la Juventus. Per la Juventus è una partita normale. Quindi delle due, ovviamente questa sera è la Juventus che gioca scarica la responsabilità, è la Juventus che non ha peso sulle spalle, mentre la Roma non può sbagliare e anche il pareggio non serve a niente. Qualcuno invece scrive che il pareggio è il risultato che servirebbe di più a tutte e due. La risposta della Juventus sempre su Twitter, perché in questo momento siamo a queste schermaglie. Dimmi, Carlo, ma cosa vuol dire serve a tutte e due? Ma terrebbe aperto il campionato della Roma. È una cosa che non può servire a tutte e due, deve servire a una soltanto, no? Cioè, non lo so, una cosa che serve a tutte e due quando due corrono per lo scudetto, quando due salgono sul ring, è una cosa che non ha senso. È una partita che vale solo per la Roma e solo se vince. Io il mio pronostico l'ho fatto venerdì, 2-1 per la Juventus, però c'è tempo ancora fino a stasera per capire. La risposta della Juventus su Twitter, perché siamo a livello di schermaglie via internet, la Roma ha la migliore difesa ma noi abbiamo il miglior attacco. Invece ti dico qualcosa di più serio, pare che Garcia abbia in testa di schierare questa sera in partenza al tridente destro Totti Gervinho. Non ha fatto la rifinitura, comunicherà alla squadra gli 11 titolari tra un paio d'ore, intorno alle ore 19. Pare che si vada verso il tridente pesante. Riflessione. Beh, vedi che Garcia, che non è fesso, non è neanche pirla come dice Mourinho, la pensa come me, no? È una partita che serve solo alla Roma, è una partita che la Roma deve vincere. E quindi è normale e anzi saggio da parte sua rischiare tutto e giocare con la formula offensiva più importante. Garcia sa benissimo che questa è la partita crocevia. Cioè, ti ripeto, se perde stasera il campionato è finito il 5 di gennaio, se vince stasera lo tiene in vita e prende anche un abbrivio psicologico, un abbrivio emotivo che potrebbe a quel punto mettere in difficoltà la Juventus e potrebbe essere benzina emotiva per la Roma per un po' di tempo. Quindi è in questo, secondo me, il senso della partita, Giovanni. Sì, sarà, ma gli ultimi che sono andati a Torino con 2, 3, 4 punte non sono finiti benissimo, secondo me. Bisogna anche avere, però non lo so. Ti interessa il menù della Juventus a pranzo? Come? Ti interessa il menù della Juventus a pranzo? Moltissimo. Petto di pollo, bresaola e insalata. Però secondo me ti interessa sapere di più che la Juventus ha fatto rifinitura allo Juventus Stadium questa mattina, e pare che Conte abbia provato anche il 4-3-1-2 con Marchisio dietro ai due attaccanti, anche se alla fine dovrebbe aver scelto il 3-5-2, il modulo classico. Beh, vedi che anche questo è saggio, anche Conte sa perfettamente che qual è la valenza di questa partita. Io sono dell'idea che in partite così non si cambia e non si improvvisa. Quindi credo che Conte giocherà con la sua Juventus, con il modulo, gli uomini, le posizioni cui è maggiormente abituato. Quindi in partite così non, secondo me improvvisare è un segno di paura. Quindi si terrà varie soluzioni, però io credo che per la Juventus sarà una partita essenzialmente difensiva. Cioè, Conte sa perfettamente che pareggiando avrebbe vinto, quindi ripeto, la Juventus ha, questo è vero, due risultati a disposizione, mentre la Roma ne ha uno soltanto, il più difficile, vincere. So che quelli che sono andati a Torino negli ultimi anni rischiano, hanno fatto una bella, se, l'unico spensierato, fine, l'unico spensierato che ha vinto è stato Stramaccioni, ti ricordi? È andato spensierato, sì, e ha vinto. Mi ricordo perfettamente questa storia della spensieratezza. Però poi non è finito bene lo stesso, perché poi le differenze vengono fuori. Questo per ricordare a chi dice anche che finita questa partita stasera ci saranno 20 gare e 60 punti in palio, quindi è vero che c'è forse più di mezzo scudetto in gioco tra Juventus e Roma, però attenzione perché c'è una stagione che sarà lunghissima. I nostri ascoltatori, Carlo, sono fantastici, ti leggo alcuni dei pronostici che stanno arrivando su Twitter. Domenico: è una partita decisiva solo se vince la Juve, e la Juve vincerà 3-1. E invece una Davide da Padova, 349-238-6666, Juve-Roma 1-3. Gianluca da Brindisi, buon pomeriggio. Sì, salve. Gianluca, prego. Partiamo con il pronostico. Dai, via. Vince la Juve. Io sono della Juve, naturalmente, per onestà lo ammetto, ma credo quest'anno, negli ultimi incontri la Roma ne ha presi sempre 3, credo che anche quest'anno potrebbe confermare in questa partita questa dolce, diciamo, consuetudine. Yeah, quindi 3-0 Juventus, dai, dimmi il resto. Sì, io volevo dire soltanto una cosa, che è sintomatico come diciamo siano stati due giocatori più rappresentativi della Roma alla fine, ossia Totti e De Rossi, a in un certo senso già creare una sorta di alibi a loro stessi, parlando di aiutini e storie varie che sono anche stucchevoli ormai e ripetitive. Sembra di stare a sentire la vecchia Inter, quando negli anni veniva a Torino e già aveva quest'alibi in tasca dell'arbitraggio e delle storie varie. Che io pensi, credo che Carlo? Non penso niente a questo proposito. Sinceramente non mi interessa neanche questo aspetto. Non credo che la Roma cerchi alibi. Certamente il gioco psicologico di queste partite consiste anche nel mettere peso e pressione sull'arbitro, ma stasera sarà Roma contro Juventus, e questa Roma credo che si sia conquistata il diritto di andarsela a giocare faccia a faccia con la Juventus con le sue armi migliori, perché io l'ho detto molte volte e lo penso ancora, è la squadra che ha giocato meglio a calcio fin qui, quindi si è guadagnata questo diritto di andare a giocare lì senza paura e così a giocare una grande partita. Ripeto, una partita che vale tanto, perché secondo me è sbagliato il discorso, ci sono ancora tot punti da qui alla fine della stagione, ma se la Juventus vince stasera, tutte le immagini, questa Juventus che perde 8 punti. No, io non me ne immagino, però Carlo, ho visto campionati persi anche con più di 8 punti, ho visto l'Inter che dominava aver praticamente perso uno scudetto partendo anche da un vantaggio superiore. 800 24 00 24, per raccontarci anche la vostra vigilia. La prima pagina del Tempo di oggi è notte da scudetto, gli ex arbitri dicono Rizzoli non reggerà. Chissà mai perché uno che ha fatto la finale di Champions non deve reggere alla pressione di Juventus Roma. Traffico. Matri è solo, Matri e il gol. Mamma mia. Qui è un massacro. Tutti convocati. 800 24 00 24. Ne approfitto anche per darvi gli appuntamenti di questa due giorni intensissima, perché oggi siamo in diretta fino alle 19, quindi per la lunga vigilia di Juventus Roma. Domani abbiamo un doppio appuntamento dalle 14 alle 15, segnatevelo tutti convocati, tradizionale, perché lunedì avremo i telefoni aperti per tutti i commenti su Juventus Roma, e poi saremo ancora in onda dalle 17 alle 18:30 con tutto il resto della 18esima giornata fino al via di Lazio Inter. 800 24 00 24, Aldo da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Pronostico e poi il resto. Allora, 1-0 per la Roma. 1-0 Roma. Strootman, vai Aldo. Senta, a me mi mette paura questo fatto che gli addetti ai lavori dicono che, non so, ma sono marziani quelli della Juve, non possono avere pressioni, niente. Siamo a due giornate dalla fine dell'andata. E già dicono che se perde la Roma, oppure anche se pareggia, il campionato è finito. Come guardiamo a fare? Ma adesso io non riesco a capire, un po' non avere una pressione, niente. L'ha avuta il problema. Mi scusi, se sta dietro la Juve 8 punti, non è precluso niente. Cioè, avanti alla Juve. È possibile che altre squadre possono vincere. Caro Aldo, la flessione la Juve l'ha avuta a inizio stagione. Io però ho detto prima che cosa penso, e la penso diversamente da Carlo Genta. Cioè, anche a più 8 questo non è un campionato finito, perché gli ultimi 10 anni raccontano di campionati che sono arrivati in volata anche partendo da situazioni così. Certo che io credo, Carlo, potrebbe invece essere più importante l'impatto emotivo di una sconfitta a Torino questa sera per la Roma. Intanto un amico scrive: giocare con la testa sgombra è l'ultima cosa che vuole Conte, li ha martellati anche durante le vacanze, Carlo. No, ma non è questione di punti, Giovanni, non è una questione matematica. Quando tu dici è una questione teorica, nel senso che consideriamo le squadre in ballo, cosa, se la Juventus vincesse, cosa deve succedere ad una squadra così forte mentalmente, così solida, così quadrata, così abituata a vincere, per perdere 8 punti dalla Roma? È vero che nel passato sono capitate rimonte incredibili, ma non ci sono le chance per rimontare 8 punti a questa Juventus. Dovrebbe distruggersi qualcosa, questo è possibile, però dovrebbe veramente rompersi qualcosa di importante dentro a quella squadra. Io credo e sono convinto di questo, che se la Juventus dovesse vincere questa sera la partita, poi possiamo parlare di freccette da qui a maggio, perché il campionato di calcio secondo me sarebbe finito. Poi ovviamente noi non lo diremo mai, fa gioco di non dirlo, però onestamente come può una squadra come questa, come potrebbe una squadra come questa perdere 8 punti di vantaggio? Davvero dovrebbe... Insomma, dovrebbe esserci una secessione interna. Però io queste cose ricordo che si dicevano anche di altre squadre che poi sono arrivate in fondo col fiatone. Prima di convocare il prossimo ospite, che, col quale celebriamo un anniversario, era ieri, 4 gennaio, oggi è il 5, ma lo celebriamo lo stesso. Vi faccio sentire Conte, la puntura di Spilo sul mercato della Roma. Roma? In questi ultimi 3 anni è forse la squadra che ha fatto maggiori investimenti, ha cambiato, se non sbaglio, il primo anno 11 giocatori con Luis Enrique, il secondo anno 9, il terzo anno ancora 10-11, a testimonianza che c'è un progetto serio, che non è facile. Dopo vi faccio i conti. Garcia. Già l'ho detto, ma loro sono programmati per vincere lo scudetto e anche per forse vincere la Champions. È una rosa molto forte, hanno due squadre per me dello stesso livello. Se non gioca uno, gioca un altro e non cambia il livello della squadra. Soprattutto giocheranno in casa, forse questo è ancora un vantaggio per loro. Ma per me, a parte dei romanisti, che loro pensano che possiamo vincere, tutti gli altri pensano che già la partita è persa per noi. Allora penso che abbiamo solo qualcosa a guadagnare domani, non abbiamo nulla da perdere. Buon pomeriggio Federico Pastorello. Buon pomeriggio Pastorello. Salve, salve a tutti voi. Lo facciamo il pronostico prima di parlare di quell'anniversario lì, che è quello dell'arrivo di Pepito Rossi a Milano, in Italia, scusate. Italia, sì. 4 gennaio 2013, oggi è il 5, ma insomma lo celebriamo. Facciamo però prima il pronostico. Guarda, io vedo una bellissima partita, però vedo un risultato alla fine di parità. Credo che alla fine sono le due squadre sicuramente del momento, tutte e due sono secondo me in grande forma, quindi non vedo una prevalere sull'altra. L'unica cosa, effettivamente l'ha detto anche Mister Garcia, che condivido, il fattore campo potrebbe forse poter influenzare, quindi diciamo al limite se mi fate giocare una doppia, un 1x è probabilmente il segno che metterei in schedina. Però Carlo Genta, prendiamo per buono l'X, perché sì, giocare la doppia è troppo comodo. Allora, Federico lo sa bene, anzi ricorda a Federico che abbiamo una promessa pubblica in ballo, cioè aspettiamo Pepito Rossi in Radio 24, sì, e questa è una promessa che abbiamo già fatto pubblicamente, Federico. E comunque l'X2 non vale, l'X1 non vale, serve pronostico sempre. Vale X, io vale dico X. Roma. Segniamo X. Allora, segniamo X. 4 gennaio 2013, ufficialmente si sa 10 milioni più 6 di bonus, il ritorno di Pepito Rossi in Italia. Oggi, vista un anno dopo, credo la più grande operazione dell'ultimo anno di mercato per quanto riguarda il nostro campionato. Lo so che chiederlo a Pastorello è come sfondare una porta aperta. Quanto vale oggi Rossi? Ma guarda, il prezzo effettivamente lo fa il mercato, nel senso che in base alle possibili offerte che ci saranno, se ci saranno a fine stagione, perché in questo mondo oggi sì, uno può mettere un prezzo che può essere molto alto o molto basso, però il mercato lo fa alla fine le richieste, le squadre che si avvicinano ai vari giocatori, quindi è chiaro che da questo punto di vista è un giocatore straordinario, quindi stiamo parlando ovviamente di un top player, quindi sì, diciamo che a 10 più bonus oggi non lo prenderebbe nessuno. No. diciamo che lo comprerei anch'io. Costasse questo, mi indebiterei un pochettino, ma sicuramente è l'affare del secolo. No, adesso, a parte gli scherzi, la Fiorentina oggi è chiaro che è facile dirlo, ma al tempo con un giocatore che era ancora in piena rieducazione, se vi ricordate, poi la prima partita di campionato la fece 4 mesi abbondantemente dopo, quindi devo dire che sì, è stata una scommessa. Assolutamente, è giusto dar merito a chi veramente ci ha creduto fino in fondo, come Della Valle e i dirigenti. A che punto è Pepito nel suo cammino verso il ritorno a quello che era? Perché credo che al di là dei 14 gol ci siano ancora dei margini di crescita fisica, sì, soprattutto. Sì, beh, guarda, devo essere sincero che conoscendolo bene, l'ultimo mese e mezzo, devo dire che ha fatto rivedere, al di là dei gol che li ha fatti sin dall'inizio, però i suoi guizzi, il suo modo di dribblare, di liberarsi dell'avversario, devo dire che sta ritornando assolutamente sui suoi livelli dal punto di vista fisico, su questo non c'è dubbio. Carlo? Ma secondo me è difficile dire, cioè secondo me è una prima volta per Rossi a questi livelli in Italia, quindi è molto difficile dire dove può arrivare. Mi viene in mente il nostro confine al cielo, perché non dimentichiamo quando è andato via Rossi, è andato in Spagna, ha avuto quell'esperienza. Adesso nel campionato italiano è per la prima volta nella sua carriera una superstar. Quindi secondo me è anche difficile, non so se Federico è d'accordo, fare un paragone rispetto al passato, perché è un giocatore ancora molto giovane, in piena crescita, e io posso dire la verità, a me piace immensamente di più ora rispetto a prima dell'infortunio, all'epoca spagnola, eccetera. Secondo me, io non l'ho mai visto così, e credo che abbia margini di crescita ancora terrificanti. Beh, sai, i 6 anni sicuramente sei all'inizio della maturità da calciatore, quindi sicuramente poi lui è un ragazzo che si applica molto anche durante gli allenamenti, quindi un giocatore sicuramente molto completo, e sicuramente è un tipo di persona che ama sempre migliorarsi, quindi è molto scrupoloso, quindi su questo sono d'accordo con te. Io mi ricordo molto bene anche la stagione, l'ultima stagione, quella prima dell'infortunio col Villarreal, dove comunque fra campionato, coppe e nazionale, se non sbaglio, toccò 34-35 gol, quindi fece una stagione allucinante, straordinaria, con chiaramente molte offerte che arrivarono, poi il Villarreal decise di trattenerlo. Però devo dire che il Rossi di oggi lo vedo molto più maturo, lo vedo molto più leader anche negli atteggiamenti per la squadra, quindi sicuramente è un ragazzo che è cresciuto, e quindi caratterialmente anche il suo modo così di stare in campo e di relazionarsi con compagni, avversari, sicuramente sta crescendo anche sotto questo punto di vista, ed è sicuramente un leader per gli atteggiamenti che ha in campo. Sì, e Sebastiano ha scritto 349-238-6666, auguro a Rossi di trascinare l'Italia ai mondiali dopo tutta la sfortuna che ha avuto. Io credo che su quell'aereo Pepito Rossi ci salirà certamente, ma non lo credo io, l'ha quasi detto Prandelli, ufficializzando che punta su una copia come Balotelli e Rossi, e poi quando saremo lì vedremo. Grazie a Federico Pastorello. Grazie a voi tutti, come sempre un piacere. Grazie a Federico Pastorello. 800 24 00 24, prima di salutarti Carlo, Claudio dalla provincia di Trento, buon pomeriggio Claudio. Buonasera a voi, intanto auguri, buon anno. Prego. Niente, io do un pronostico per Juve, sì. Roma, io dico Roma fondamentalmente perché secondo il mio punto di vista ha un uomo in più che Totti, che secondo me, come la vedo io, è uno degli ultimi fuori classe rimasti in Italia, per cui io mi auguro veramente che la Roma possa fare il risultato pieno e riaprire il campionato, perché altrimenti sarebbe, non dico finito, però insomma la Juve vincendo ci metterebbe veramente una bella ipoteca. Ecco tutto qua. Grazie Claudio. Michele dalla provincia di Bergamo. Michele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Io volevo dire solamente una cosa, però sgombriamo il campo da sospetti. Sì. Allora, questa stasera c'è la terna che ha fatto fuori il Napoli a Tokyo. Sì. Uno. Poi io mi chiedo come mai voi addetti ai lavori non ci fate caso, io ci faccio caso, sono un povero Cristo, ma ci faccio caso. Tutte le volte che la Juve gioca a Torino ha delle partite, diciamo delle partite clou importanti, gli arbitri sono sempre quelli. Possibile che me ne accorgo io e voi no? Bah, insomma, Rizzoli è sempre quello, ma non è solo sempre quello per le partite importanti della Juventus. Ripeto, Rizzoli è un arbitro che ha fatto una finale di Champions League, avrebbe fatto la finale del Mondiale, scusate, dell'Europeo nel 2012, poi il cammino dell'Italia gli ha precluso la possibilità. Carlo, tu te ne rendi conto? Mi sembra che vada alle varie ed eventuali, insomma, dire come sarà un arbitraggio ancora prima di giocare, appunto, mi sembra eccessivo. Ma poi vediamo, sarà un fattore, lo analizzeremo se sarà un fattore, ma perché sì, non abbiamo nessun problema. Vedrà, però dirlo mi prima. Sembra fare processo alle intenzioni, quindi non mi sembra proprio il caso di fare processo alle intenzioni di designatori, Rizzoli, eccetera, eccetera. Ma non ne ho voglia. Ciao Carlo, domani. Ciao Giovanni, a domani. A domani, 800 24 00 24, torniamo subito. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Non tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. Dizia logo, olha, sou mais conhecido. Mas não, se o tempo voltasse para trás, eu digo sempre, estudos, os livros são mais importantes. Depois o futebol. Porque hoje até há possibilidade de estudar e jogar a bola. Antigamente não. E meno male che Eusebio non ha dato ascolto ai suoi genitori che gli dicevano di fare altro, di studiare, invece che giocare a pallone. Saluto Sandro Mazzola, buon pomeriggio Sandro. Salve, buonasera a voi. Perché noi stiamo vivendo questo pomeriggio di lunga vigilia verso Juventus-Roma, poi chiederemo anche a Sandro Mazzola il pronostico, poi parleremo dell'Inter, però è giusto anche parlare di Eusebio che da questa notte non c'è più, ci ha lasciato all'età di 71 anni, e è stato secondo alcune classifiche nei primi 10 giocatori di tutti i tempi, secondo la classifica di Sandro Mazzola che l'ha visto, ci ha giocato contro, dove lo mettiamo? Ma secondo me sicuramente nei primi 10, probabilmente anche nei primi 5 mi è modo di vedere, perché era uno che sapeva fare un po' tutto, perché aveva tecnica, aveva forza fisica, sapeva fare gol, sapeva fare assist. Quindi di sicuro nei primi 5 secondo me. E poi era sicuramente un simbolo anche per il Portogallo, era qualcosa. Ho letto tanti messaggi di portoghesi importanti, Cristiano Ronaldo, Mourinho, 3 giorni di lutto nazionale in Portogallo per la scomparsa di Eusebio. Hai un ricordo particolare legato a Eusebio? Ma io ricordo in particolare una partita che abbiamo fatto a Madrid per i 70 anni di Zamora, il mitico portiere spagnolo, e allora c'era il resto d'Europa contro la Spagna, io giocavo centravanti e lui era mezzala lui, e quindi dopo loro giocavano con il 4 difensori in linea, erano avanti in questo, e io ero abituato con i miei compagni, con Suarez, che contro questo tipo di tattica, quando la palla l'aveva centrocampista nella tre quarti, io o fingevo un piccolo scatto in avanti e poi arretrato a prendere palla o viceversa. E a quel punto, dopo 5-8 minuti credo, aveva la palla il mio compagno, aveva la palla lui, e io ho fatto questo movimento, sono rientrato per poi ripartire, e mentre ripartivo ho detto ma come fa a saperlo di mettermi la palla davanti e non dietro? La palla era già davanti, era già davanti. Era oltre, era avanti. Sandro, sì, Mazzola, era avanti. Pronostico su Juventus-Roma. Ma io credo che il pari per il momento sia quello che va per la maggiore, a mio modo di vedere. Ma ti iscrivi alla lista di quelli che dicono se vince la Juve campionato finito, se vince la Roma duello fino alla fine col pareggio, chi lo sa? Sì, è troppo presto? No, sono d'accordo. Se vince la Juve andiamo tutti a casa e diamo lo scudetto. Parliamo un po' di Inter, ti faccio sentire Mazzarri oggi. È vero anche che giochi bene, perdi, non pareggi, poi magari qualche partita non la fai bene e magari pareggi e non vinci quando giochi contro squadre in cui tu pensi di potercela fare. È chiaro che tutte queste cose alla fine i ragazzi le sentano, non posso dire di no, ripeto, spero, e domani sono curioso di vedere proprio come entreremo in campo contro la Lazio, che la vittoria del derby in quel modo ci possa aver dato ancora più carica e autostima e più convinzione nei nostri mezzi. Sandro Mazzola, che voto dai alla prima metà di stagione dell'Inter? Darei un 5,5. Non la vedo ancora da sufficienza, sembrava che avesse trovato una certa formula, poi secondo me ha fatto troppi pareggi. Ha perso qualche occasione, qualche punto di troppo. Sì, e anche con squadre magari non con le quali si poteva vincere, ecco. Cosa ti aspetti da Toir, da questo mercato che sta iniziando, che è iniziato da qualche ora? Ha la possibilità di cambiare la faccia a questa squadra, pur sapendo che gli investimenti non saranno quelli sognati dai tifosi dell'Inter? Ma credo che sia difficile, io credo che sia difficile, perché per cambiare la faccia devi prendere dei top player, e i top player credo che in questo momento in Italia non ci vengono, quindi devi avere degli osservatori che sono andati a pescarti qualcuno che non è ancora un top player ma lo può diventare, e quindi bisognerebbe sapere cosa hanno in mente. Oggi come oggi credo che, a mio modo di vedere, ci sarà un rinforzo, specialmente a centrocampo, ma non credo di grandissimo livello. Ma c'è qualche uomo già nell'Inter su cui tu pensi si possa fondare un ciclo? Tanti dicono Kovacic, che però con Mazzarri trova poco posto. Ma a me Kovacic piace, per quando l'avevo visto prima che arrivasse qua. Qui vedo che fa un po' fatica, non riesco a capirne il perché. Bisogna conoscere anche il ragazzo, capire che carattere ha, che mentalità ha. Poi bisogna dire che Palacio non mi aspettavo facesse tutto quello che ha fatto, molto più bravo di quanto io pensassi. E quindi con un Palacio così, se il ragazzino che va in giro di notte si mette in testa di fare il calciatore... Sì, non va tanto in giro di notte, più che altro piglia aerei e va in giro per il mondo. Per il mondo, peggio ancora. Tra l'altro, notizia di qualche minuto fa, Icardi è stato convocato per la trasferta di domani all'Olimpico contro la Lazio, però non sta bene, ha avuto l'influenza e Mazzarri ha fatto capire che difficilmente domani sarà della partita, mentre potrebbe essere della partita, magari non dal primo minuto, Milito. Quanto può dare ancora all'Inter, Sandro? Ma sai, bisognerebbe, se ha recuperato in pieno, oggi i calciatori non è come una volta che a 35 anni erano finiti, oggi si può andare fino a 40, Zanetti è un esempio in questo, se ha lavorato bene, se si è curato, io credo che può dare ancora molto per un paio d'anni. Tu però pensi sia fisiologico a fine anno, come sembra a scadenza di contratto, l'addio all'Inter, la separazione? Ma dipende se trovi uno più giovane e bravo da metter lì, altrimenti io aspetterei. Dove può arrivare questa Inter? Abbiamo detto 5,5 il voto della prima metà della stagione, anche se in realtà mancano 180 minuti alla fine del girone d'andata. Prospettiva verso maggio? Ma secondo me l'obiettivo Inter deve essere il terzo posto. Poi dopo si vedrà, però non bisogna partire a pensare a meno del terzo posto, al minimo, e sarebbe un buon risultato, e poi magari non si sa, però il terzo deve essere l'obiettivo. Quindi sbaglia Mazzarri quando ripete questo è un anno zero, ci vuole chiarezza, non facciamoci false illusioni, si mette troppa pressione sulla squadra? Ma se la squadra non sa tenere la pressione, non sono giocatori da Inter, allora cambiamoli. Grazie Sandro Mazzola. Grazie a voi, buonasera. Ciao Sandro, grazie. 800 24 00 24, Gino da Roma. Buonasera. Prego. Innanzitutto, per la partita di stasera io penso che un pareggio va benissimo alla Roma, quindi penso uno 0-0. Quindi finisce 0-0. Visto che giochiamo con la miglior difesa d'Europa contro una squadra, la Juventus, che nelle ultime 9 partite ha preso un gol, quindi la vedo dura per gli attaccanti far gol. E poi volevo dire una cosa prima a Carlo Genta, che adesso non c'è più, che la Roma c'ha 2 risultati su 3, perché la Roma gli va benissimo il pareggio, perché nelle prossime 18 partite che deve fare gli è sufficiente recuperare minimo i 2 punti alla Juventus, perché noi ci presenteremo alla penultima di campionato anche solo con 3 punti di svantaggio, vincendo lo scontro diretto noi andiamo primi in classifica con lo scontro diretto a favore e l'ultima Genova, e non so se vi ricordate che a Genova Roma vinse uno scudetto. Sì, lo scudetto di Pruzzo, sì, tutto vero, difficile secondo me fare i calcoli da qui a 18 giornate, però Gino, io l'ho detto, sottoscrivo, secondo me nemmeno la sconfitta chiude questo campionato, la sconfitta della Roma intendo, tantomeno il pareggio, anche perché comunque 60 punti sono tanti e c'è di mezzo l'Europa League, c'è di mezzo molto che dovrà fare comunque la Juventus anche vincendo questa sera, però poi ne riparliamo. 800 24 00 24, Luca da Reggio Emilia. Luca, buonasera. Niente, io volevo, secondo me stasera Roma più che altro spero anche che riconfermi insomma di essere quella schiacciasassi che è stata nelle prime 10 partite, questo lo dico perché semplicemente ha avuto un piccolo periodo negativo, ma è stato legato sicuramente al fatto che mancava Totti, la Roma non ha una rosa come quella della Juve, forse varia così, quindi gioca con degli equilibri molto, molto fermi, ma Garcia ha saputo trasformare questo gruppo in un gruppo fortissimo e secondo me gli juventini insomma non devono sottovalutare questa cosa. E poi anche per il discorso del campionato già finito in caso di sconfitta della Juve, insomma della Roma, un pochino della Roma, in fatto di sconfitta, sì, della Roma, secondo me questo qui è un pochino un sogno degli juventini, perché insomma anche la Juve potrebbe avere qualche perdita nella rosa durante il campionato. Sì, è evidente, Luca, sarebbe un segnale forte, quello di una vittoria della Juventus, la decima consecutiva, se ricordiamo cosa si diceva dopo la sconfitta di Firenze. Da lì in poi è cambiato tutto. C'è chi oggi ha scritto, credo, la Gazzetta dello Sport, che però questa Roma ricorda molto la Fiorentina, quella Fiorentina per la capacità di attaccare sugli esterni, per l'imprevedibilità, ad esempio, di un uomo come Gervinho, che ricorda Joaquin. Questa potrebbe essere una chiave della partita di questa sera. L'altra, l'abbiamo detto, inevitabilmente è l'attenzione sull'arbitro. Vi faccio risentire Conte sulle parole di Totti. Le chiacchiere poi stanno a zero e servono solamente ad alimentare polemiche o a creare delle situazioni che non hanno niente a che fare col calcio e che purtroppo, ripeto, stiamo cercando di cambiare questo calcio, no? Però mi sembra che non si voglia fare, ecco, perché comunque ad ogni partita è accompagnato sempre da qualche polemica e sembra che la polemica sia più importante della partita. Questo è il calcio in Italia oggi. Stefano Alessio da Buia, Udine, la Roma vince 2-1. Sentiamo Garcia sul tema arbitro. Ma io preferisco questa pressione di vedere che è una grande gara tra due grandi squadre, perché vuol dire che facciamo bene dall'inizio della stagione. E io faccio questo mestiere, anche i giocatori fanno i giocatori d'alto livello per giocare queste gare. Io firmo per giocare ogni settimana delle gare di questo livello. Che è bello, un campo pieno, un bel ambiente, due squadre d'alto livello, c'è il migliore arbitro d'Italia che sarà protagonista. Allora, qua di più bello, vedremo, giochiamo, e come ho detto, che il migliore vince, e il migliore su questa gara forse non sarà il migliore al fine della stagione, vedremo. Intanto vi do anche qualche aggiornamento dall'estero. Il Barcellona 4-0 sull'Elche, partita praticamente finita, mancano un paio di minuti. In FA Cup invece ha vinto 2-0 il Chelsea fuori casa contro il Derby, vince 2-0 il Liverpool contro l'Oldham, partita praticamente terminata, e sta perdendo in casa il Manchester United 1-0 contro lo Swansea, che è l'avversario nel prossimo turno del Napoli in Europa League. 800 24 00 24 per la vostra vigilia di Juventus-Roma, ma anche per tutto il resto, perché vi faremo sentire un Lotito scatenato contro Petkovic, vi faremo sentire Allegri che parla di sfida salvezza contro l'Atalanta, vi faremo sentire la vigilia di Benitez. Adesso però vi facciamo sentire il traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24. Filippo da Lecce, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, posso parlare? Prego. Complimenti per la trasmissione. Io, come al solito, trovo sempre molta enfasi quando parlate della Juventus. Sì. Premetto che io sono uno juventino non tanto entusiasta negli ultimi tempi per le vicende societarie, ma credo che anche se dovesse vincere questa sera, io credo che la Juve potrà avere un cedimento nel corso delle prossime partite, perché vedo molto in forma, oltre che la Roma, anche il Napoli. Quindi io starei attento prima di dire che la Juve chiuderà il campionato se dovesse vincere. Solo questo, grazie. Grazie a lei, Filippo. Non l'ho detto io lo ripeto, se la Juve vince il campionato non è finito, anche se evidentemente il segnale è forte. Saluto Furio Fedele, collega del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao, buonasera a tutti. Ti risparmio il pronostico su Juventus Roma, certo. Te lo risparmio. Non ti risparmio invece la frase di Allegri sul suo futuro, quella che ha pronunciato oggi, un paio di ore fa, in conferenza stampa Milanello. Allegri? Ma no, sono stato molto chiaro, anche perché è una decisione che avevo preso quest'estate, quindi che me l'ho tenuto per me, che ho comunicato a Galliani prima di Natale. Quindi per me non c'era nessuna novità, infatti si arriva al fatto del prossimo allenatore del Milan. Solo in Italia a volte ci si scandalizza o si crea clamore quando vengono dette queste decisioni. Questo era Allegri, fedele, ha ufficializzato quello che era chiaro, lo aveva detto anche nei giorni scorsi in un'intervista ad alcuni giornali. È secondo te un'uscita questa di Allegri che lo aiuterà a vivere in maniera più serena gli ultimi mesi? Ora che tutto è chiaro? Ma era probabilmente già chiaro anche prima, ha ragione Massimiliano. Non so questo quanto abbia giovato, classifica la mano, alla squadra, visto che il rendimento del Milan è altamente deficitario e si appresta ad affrontare una seconda parte della stagione dove rischia tantissimo fin da domani contro l'Atalanta. Sarà un mese di gennaio molto complicato, sia in campionato sia in Coppa Italia, se possibile. Io sono sempre dell'avviso che i calciatori, seppur inconsciamente, hanno bisogno di sapere che l'allenatore che in quel momento sta lavorando con loro sarà quello poi che li giudicherà alla fine. E probabilmente mi sbaglio, ma mi sembra che nella maggior parte delle occasioni questa sia un po' la sensazione che si trae, soprattutto nel campionato italiano. Oggi Allegri faceva riferimento a Lewandowski, che è andato a fare addirittura le visite mediche ed è stato tesserato dal Bayern con sei mesi d'anticipo, e gioca in una diretta nel Borussia Dortmund, che è l'antagonista. Sì, e nessuno si è scandalizzato. No, è vero, per carità, ma non c'è bisogno di scandalizzarsi, perché i veri scandali sono altri e purtroppo ne conosciamo tanti nel nostro paese. La verità è che comunque, da un punto di vista psicologico, mi sembra che questo Milan sia un po' sulle gambe, si è visto nel derby, si è visto e si vede in una stagione dove su 17 partite sono state ottenute 4 vittorie, in ben 14 occasioni in vantaggio il Milan non ha sfruttato questo vantaggio, i gol al passivo sono 26, quelli all'attivo 25. Cioè, io sono molto pragmatico, non sono un grande psicologo, non intendo esserlo, però i fatti sono questi e quindi insomma... le certezze di Allegri, almeno da questo punto di vista, non mi sembrano completamente confortate dai fatti. Sì, io parlavo forse la possibilità di togliersi dalle spalle la scimmia di quella domanda ripetuta tutte le settimane sul tuo futuro, cosa succede. Probabilmente da questo punto di vista può essere più leggero da qui a maggio per Allegri, ora che tutto è stato chiarito, è stato detto ad alta voce anche quello che quasi tutti avevano capito, ma credo già a giugno, dopo l'incontro con Berlusconi, la scelta comunque di andare avanti. Arriva Onda, è arrivato, anzi Onda, perché così ha fatto sapere, va pronunciato il suo nome. Ti faccio sentire Gagliani al ritorno dal Brasile, alla Malpensa, all'ora di pranzo, proprio sul giapponese. Ma Onda è un grande giocatore, è un grande colpo, io credo, quello di Onda, solo avendolo fatto qualche mese fa, adesso così non è più la novità, ma insomma noi abbiamo fatto Onda e Rami e quindi siamo soddisfatti, vediamo un po'. Sposta qualcosa Furio Fedele, Onda e Rami, Onda e Rami? Sì, che se vuoi sapere il nome, esatto, il nome di battesimo non si pronuncia Keske, e Adil è il nome di battesimo di Rami, ma secondo me soprattutto il giapponese può portare tanto, perché io non lo conoscevo benissimo fino a poco tempo fa, l'ho seguito, mi sembra innanzitutto un calciatore di stampo europeo, ma con la serietà e la professionalità di un giapponese, quindi si presenta molto molto bene. Calcola che ieri sera l'ho seguito fino praticamente a cena e invece di andare appunto al ristorante avrebbe preferito restare in albergo a fare un po' di tapirulan e di allenarsi, anche perché sosteneva giustamente che il lungo viaggio in aereo aveva rischiato, così rischiava di atrofizzare un po' i muscoli. Pretende, ed è sua precisa intenzione, tutti i giorni di allenarsi almeno per 2 ore. Si era congedato a metà dicembre da Mosca, dal CSKA, e da quel momento con il suo preparatore atletico ha continuato ad allenarsi. Quindi, come vedi, un professionista eccellente ed esemplare, è un minimalista assolutamente molto molto riservato e molto molto attento a quello che è proprio la struttura fisica del calciatore, e ha promesso che vorrà segnare tanti gol e per fare questo vorrà giocare in attacco. Ecco, dove gioca Onda? Siamo sempre nell'alberello di Natale, che fra un po', finite le festività, andrà fuori moda, ma che sarà sicuramente l'unica tattica che il Allegri potrà utilizzare per schierare contemporaneamente Kakà e Onda con l'unica punta Balotelli. quando Kakà non sarà disponibile, perché magari appunto avrà un, godrà di un turno di riposo, Onda giocherà a ridosso delle due punte, che saranno due punte vere, mi riferisco a Balotelli e poi a scelta uno fra Pazzini e Massi. Quindi tu ritieni che ad esempio da qui a fine gennaio possano esserci notizie in uscita? Mi viene in mente Robinho, che in tutto questa, in tutta questa operazione credo difficilmente troverà posto. Sì, anche se rischia di giocare domani, perché Balotelli è febbricitante, bisogna vedere come, come sarà la, la, la situazione. Questa è una notizia proprio. Quindi Balotelli in dubbio per Milan Atalanta di domani? Sì, ecco, bisogna ancora verificare, però se così fosse giocherebbe Matri con Robinho e Kakà dietro le punte. Io ti dico che prima di acquistare, anche se Onda e Ramiri, ripeto, sono già due punti di partenza importanti qui a gennaio, e Milan dovrà vendere, ci sono parecchi giocatori in esubero e soprattutto Allegri non intende allenarne dal primo febbraio in poi più di 24-25, compresi tre portieri, anche i portieri verrebbero ridotti probabilmente di un'unità, e a questo punto vedremo, servono uno o due mediani. Il Milan non sembra così favorito su Nainggolan perché la concorrenza è molto forte, dovrebbe aver perso D'Ambrosio, il terzino sinistro, anche lì c'è una certa sofferenza perché dovrebbe essere ormai dell'Inter, e però bisogna anche partire dal presupposto che chi verrà acquistato dal Milan dovrà avere la possibilità, oltre che di costare molto molto poco, anche di poter giocare in Champions League, e soprattutto dovrà essere comunitario, perché il colombiano Vergara e Onda sono già i due extracomunitari che hanno occupato le caselle a disposizione del club rossonero per questa stagione. Intanto ti saluto dicendoti che oggi ha segnato Niang nel Milan, 33 partite, un gol in Coppa Italia, 28-0 esatto. In campionato, oggi in Coppa di Lega francese col Montpellier, un gol su calcio di rigore. Grazie a Furio Fedele. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie a Furio Fedele. Allegri sulla sfida salvezza. Gli ultimi 5 mesi, quelli che saranno del 2014, che ci porteranno al finale stagione, devono essere differenti dal finale del 2013. Stiamo recuperando un po' di giocatori, c'è l'arrivo di Onda, l'arrivo di Ramy. Dobbiamo ricominciare a vincere. Domani è importante vincere, perché non siamo in una buona posizione di classifica, perché abbiamo solamente 19 punti e al momento siamo più vicini alla zona retrocessione che alla zona Europa. Antonio da Napoli, 800 24 00 24. Antonio. Sì, buonasera. Buonasera. Senti, io stasera spero tanto che la Roma vinca, proprio per non ammazzare il campionato. E poi la mia è una domanda, cioè non è una polemica. Sì. Come mai che la Juve è così forte in Italia, però in Europa non riesce ad andare avanti? Credo, Antonio, perché il livello in Europa è superiore soprattutto nei valori medi, oltre che nelle big, quelle come il Bayern Monaco, allora, con cui si è scontrata la Juventus l'anno scorso. Prego. C'è da dire che il livello del calcio italiano non sta all'altezza del calcio. Ma questa purtroppo è una verità, purtroppo assodata, lo abbiamo detto anche in settimana, la conquista della Champions League da parte dell'Inter è stata una meravigliosa eccezione da questo punto di vista, anche perché è conquistata battendo i campioni di Spagna, di Inghilterra, di Germania, però il calcio italiano è quello lì in questo momento e lo sarà ancora almeno a medio termine, per qualche anno lo sarà anche in questo mercato di gennaio, dove sarà difficile vedere arrivare dei top player, sarà difficile vedere arrivare anche due giocatori come Balotelli e Pepito Rossi, che un anno fa, ne abbiamo parlato con Federico Pastorello, di questi giorni arrivavano nel campionato italiano. Sarà un mercato di difesa per un campionato che è in crisi economica e di conseguenza anche in crisi di competitività sul campo. A proposito di campo, sta per iniziare Fiorentina-Livorno, che vi racconteremo a partire dalle ore 18. Noi adesso ci fermiamo però per il notiziario, torniamo fra una decina di minuti. Anche Honda con Spirito Samurai potrà lasciare un qualche segno importante al Milan. Tutti convocati. farla sorridere e prenderla in maniera molto, sì, molto, molto serena. Non ci sono delle risposte da dare a chi fa queste affermazioni, anzi, le uniche risposte che io insegno ai miei calciatori, a chi lavora con me, a chi mi frequenta, che le risposte vanno sempre sul campo. Non credere alle favole, ma neanche alla realtà, a tutti quegli scrupoli che non ti fanno vivere. Un campo pieno, un bel ambiente, due squadre d'alto livello, c'è il migliore arbitro d'Italia che sarà il protagonista. Partita è accompagnata sempre da qualche polemica e sembra che la polemica sia più importante della partita. Questo è il calcio in Italia oggi. È una gara con due grandi squadre, due squadre forti, con un grande arbitro, allora solo che il migliore vince, solo questo da dire. Eppure caro Pierluigi Pardo, a sentire gli amici da casa 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ora se volete chiamare per vivere insieme la vigilia di Juventus-Roma. A sentirli, caro Pier, non è la notte delle verità, non è nemmeno il giorno delle verità, perché comunque vada, questo è un campionato che resterà aperto. Pier? Tanto secondo ciao. Me no, cioè ciao. Secondo me se vince la Juve il campionato, poi può succedere di tutto nella vita, ma il campionato lo salutiamo e ci prepariamo ai mondiali. Adesso è un'esagerazione, però voglio dire, il discorso scudetto sarebbe praticamente chiuso, poi perché da tutto può succedere, ci sarebbero altre 20 giornate, ma insomma 8 punti di vantaggio da parte della squadra che a quel punto, dicendo stasera, dimostrerebbe per l'ennesima volta di essere la migliore, la più forte, che ha più in carica, insomma mi sembra che equivarrebbero a un verdetto già scritto. Poi ci sono tante altre cose interessanti, la salvezza, la zona Champions, però ecco, gli altri due risultati invece lo terrebbero in vita. È chiaro che una vittoria della Roma avrebbe un valore, secondo me, anche dal punto di vista psicologico, perché andrebbe a incrinare inevitabilmente alcune delle certezze che la Juve ha saputo costruirsi in Italia in questi 2 anni e mezzo, e quindi avrebbe un valore al di là dei 3 punti anche proprio psicologico. Poi il campionato è chiaro che è lunghissimo, però ti ripeto, sono 2 risultati su 3 tengono vivo il campionato. La vittoria della Juve gli dà una bella spallata, ma insomma mi sembra anche banale dirlo. Intanto ottavo minuto, Fiorentina Livorno 0-0, ancora non si è visto nulla, come non si è visto nulla nella prima partita di questa 18ª giornata. Io non so se hai avuto il piacere di vederla. No, non l'ho avuto perché Chievo-Cagliari, appunto, era in viaggio verso Torino, ma Chievo-Cagliari credo che sia stata, da quello che ho letto, una delle partite più tristi della storia del calcio. Vedo gente qui che annuisce, che conferma, sì, 0-0, stanno ancora cercando il pallone del calcio di rigore di Piniglia, che è stato lanciato nella stratosfera. le ultime da Torino, della Roma abbiamo già detto e ci sono ancora conferme a queste indiscrezioni, potrebbe giocare il tridente pesante con Gervinho, Totti e Destro. Cosa ne pensi? Penso che sarebbe un grande segnale di personalità, ma anche un bell'azzardo per la Roma, sinceramente, nel senso che la forza della Roma, secondo me, è soprattutto nell'equilibrio, come di tutte le grandi squadre, insomma, ma insomma, Totti e Destro tutti e 2 in campo dal primo minuto, secondo me è un azzardo. Poi è chiaro che Totti è un giocatore imprescindibile per la qualità che ha, e che Destro è tornato su livelli molto importanti, e in questo momento è praticamente impossibile tenerlo fuori, visto che sta bene. Però sono stato evidente, imporrebbe il centrocampo a un lavoro molto molto pesante, però sarebbe anche una grande dimostrazione di personalità, insomma. Ci sono vari modi per giocarsela dal punto di vista di Rudy Garcia: scegliere un atteggiamento magari più prudente con Florenzi, con lo spostamento, con l'avanzamento di piani, c'è l'inserimento di Bradley in mezzo, con tutta una serie di soluzioni un pochino più prudenti. Questa sicuramente ti dà di più dal punto di vista della qualità davanti, perché Destro fa benissimo e Totti è un fuori classe, però impone un lavoro di sacrificio ai centrocampisti e a Gervinho veramente molto molto faticoso. Invece dopo la riunione tecnica pare confermata per la Juventus la formazione con il 3-5-2, con Pogba in campo, Marchisio in panchina e con Tevez e Llorente in attacco. Questa mattina Conte nella rifinitura allo Juventus Stadium, lo ripetiamo, aveva provato il 4-3-1-2 con Marchisio in posizione di trequartista, ma da quello che trapela, insomma, da Torino, poi andremo dopo le 18.45 proprio a Torino per le ultimissime, sembra Pier che alla fine Conte vada sul classico, scelta credo coerente. Sì, scelta coerente, anche se probabilmente la migliore partita del campionato della Roma è stata fatta, ovviamente la Juve è più forte dell'Inter, insomma nessuno si offenda, ma credo che siano i valori tecnici, ve lo dico, la migliore partita della Roma secondo me rimane quella di San Siro contro l'Inter, contro la difesa a tre e con un tridente leggero perché non c'era ancora destro, Totti era questa specie di falso 9 per dirla alla spagnola, con Gervinho e Florenzi che in quella partita furono decisivi proprio in fase di possesso, ma soprattutto direi di non possesso, quando il pallone c'erano gli avversari. Io credo che la Juve abbia ormai gli equilibri talmente collaudati con la difesa a tre che quella coppia in Europa in qualche circostanza ti può dare qualche soluzione in più, ovviamente ti può consentire di recuperare un giocatore comunque importante come Marchisio, ma io credo che il 3-5-2 alla fine sia un po' in questo momento per la Juve la coperta di Linus, e onestamente cambiare prima di una partita così importante mi sorprenderebbe. Sì, credo anche per sfruttare al meglio le qualità di incursori di Vidal, di Pogba, ho letto oggi alcune statistiche, la Roma ha preso 7 gol, nessuno dalle punte centrali avversarie, ha preso gol dagli esterni, ha preso gol dai centrocampisti, metà dei gol della Juventus in questa stagione vengono da Vidal e Pogba, però vengono soprattutto con il 3-5-2 che evidentemente è un modulo che sfrutta al meglio anche queste capacità. Gianluca da Napoli, 800 24 00 24. Gianluca. Buonasera. Buonasera. Grazie per la convocazione. Volevo dire, se la Juventus, dicendo questa sera il discorso con la Roma è abbastanza chiuso, figuriamoci per il Napoli che sta a 10 punti, che ha dei problemi soprattutto di organico. Sì, problemi credo Gianluca in via di risoluzione, Pier, perché Gonalon è un giocatore, non bisogna chiedergli di fare gol, però è un giocatore che può essere importante per gli equilibri tattici del Napoli. Sì, il campionato per me ce l'ha in mano la Juve, adesso lo vediamo come va stasera, ma è chiaro che se la Juve continua col ritmo delle ultime giornate... Sì, ma se la Juve vince altre 10 partite di fila è finita parlando. A prescindere. Se invece dovessero esserci durante questa stagione dei passaggi a vuoto simili a quelli che si sono intravisti all'inizio della stagione, poi in realtà la Juve di punti ne ha persi pochi, però sicuramente era meno brillante, no? In qualche partita ha avuto anche sicuramente qualche episodio che è andato per il verso giusto. Prima di Firenze, poi da Firenze in poi è stata una squadra assolutamente perfetta, quindi se la Juve è quella da Firenze in poi, secondo me non so di che stiamo parlando. Se invece dovesse esserci qualche passaggio vuoto, le altre possono approfittarne. Per me il Napoli è destinato a crescere, io penso che farà mercato e penso che possa avere come obiettivo il secondo posto, sicuramente, però è molto presto per fare dei ragionamenti. Qualche punto di troppo l'ha perso soprattutto in casa contro il Parma, contro l'Udinese, contro il Sassuolo, questi sono i punti secondo me che pesano, perché poi lo scontro diretto è andato come è andato, ma ci sta insomma che si possa perdere quella sfida lì. La distanza del Napoli è una distanza molto importante perché non ha avuto la regolarità che hanno avuto le altre, soprattutto la Juve. Sì, credo però che il Napoli sarà una delle squadre che crescerà di più con questo mercato. Io penso che farà mercato, esatto. Assolutamente. Tutti convocati. Fiorentina Livorno 0-0, siamo al quarto d'ora del primo tempo, 800 24 00 24 è invece il numero che dovete fare per raccontarci in diretta la vostra vigilia di questo Juventus-Roma o parlare anche di quello che volete. Qualche pronostico via sms: la partita finirà in pareggio, Conte schiererà un falso 3-5-2 che diventerà un 4-4-2 con copertura sulle fasce, questo è Mauro da Venezia. E poi un altro amico, forse Garcia, spera nelle gambe pesanti dei giocatori della Juventus e per questo schiera il tridente per sfiancare subito la difesa di Conte. E poi alcuni amici su Twitter, dove va forte come pronostico, caro Pier, il 3-1 per la Juventus, su Twitter, 3-1 per la Juventus, ma tu il pronostico l'hai già fatto ieri. Saluto Ciccio Graziani, ciao Ciccio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ti chiedo subito il pronostico così ci leviamo via il dente e via il dolore. Siccome non ci indovino mai, vanno sempre al contrario, i miei pronostici dico che vince la Juve. Vince la Juventus, siccome non c'è... vabbè. Quante ne hai giocate di Juve-Roma così? Diverse. Sono stato tre anni e mezzo a Roma, quindi almeno sei partite le ha giocate. Ma di questo peso, che peso ha questa partita? Beh, è un peso importante, perché chiaramente se vince la Juve aumenterebbe a dismisura già un vantaggio consistente. Però è chiaro che il campionato non è finito, il campionato italiano ci ha abituato che addirittura in squadre che davamo già per certe che vincessero lo scudetto, mi ricordo la Juventus di Carlo Ancelotti, tanto per fare un esempio, poi alla fine, pur avendo 9 punti di vantaggio, lo persero. Per cui può succedere di tutto. È chiaro che, guardando la realtà, se questa sera la Juve vince, mette una seria ipoteca sul campionato, perché poi dipende esclusivamente da lei e non più dagli altri. Pier. Sì, poi c'è un elemento statistico, se vuoi, secondo me il discorso che fa Ciccio è giustissimo, pensando a quel campionato lì con la sconfitta di Verona, col sorpasso poi della Lazio all'ultima giornata. Però io ho la sensazione che rispetto a 10 anni fa, e lo dicono anche i numeri, la quantità di partite potenzialmente pericolose per le grandi squadre sia molto diminuita, e lo dimostra il livello al quale Juve e Roma stanno correndo quest'anno, che è un livello da record. Ha ragione De Rossi quando qualche giornata fa diceva che la Roma è sfigata da questo punto di vista, perché in qualsiasi altro campionato, con i punti che ha, sarebbe tranquillamente in testa alla classifica. Sì, ci stiamo spagnolizzando. Ci stiamo spagnolizzando, e quindi poi questo fa sì che anche gli eventuali 8 punti di vantaggio li devi avere con questa chiave qui. Cioè, quando la Juve va a Bergamo, sul campo di una squadra di metà classifica, un campo difficile, complicato anche dal punto di vista ambientale, vince con quell'autorevolezza, e capisci che mentre 10 anni fa c'erano più trappole, c'era meno differenza forse tra le grandi e le piccole, e quindi era più facile perdere qualche punto per strada. Vi ascolta un altro che di queste partite ne ha giocate tante. Saluto Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Quanto pesa questo Juventus-Roma? È pesante anche perché, ripeto, pesante o decisivo? Si affrontano, dicevate giustamente voi, le due squadre in questo momento qua, ci stiamo un po' spagnolizzando, perché alla fine Juve e Roma stanno staccando tutti, facendo un grande campionato. Detto questo, se la Juve stasera vince, secondo me è un match point molto importante, perché poi le distanze si allungherebbero, ed effettivamente dopo la Juve ha tanta forza, e anche fuori casa è diventato un rullo compressore impressionante. Mi raccontate tu e Ciccio Graziani come si gestiscono le ultime ore di vigilia? Tra l'altro questa è stata una vigilia particolare, con in mezzo le vacanze, credo che i vostri ex compagni abbiano maledetto a lungo il calendario che li ha costretti a Juventus-Roma al rientro dalle vacanze di Natale. Ma come si gestiscono queste ultime ore, Alessio? Devo dire che poi questa partita sta diventando lunghissima, appunto perché mi dicevi te, le vacanze di Natale l'hanno allungata, e veramente uno non vede l'ora che fischi l'inizio della partita, perché veramente sta diventando stressante, pesante. Personalmente, più passava il tempo, più arrivava un'eccitazione, una mista di voglia di far bene, un po' di paura, un po' di carica, di adrenalina. Detto questo, però, la partita molto sentita, ma soprattutto con la sosta, è stata per i giocatori mentalmente pesante, perché potrebbero anche arrivare scarichi, perché sono veramente 15 giorni che si parla soltanto di questa partita. Però è una partita che tutti i giocatori vorrebbero giocare, perché insomma si è collegato tutto il mondo. È una partita che secondo me può decidere anche il campionato se dovesse vincere la Juve. Ciccio, allora forse non è un caso che il giocatore più rappresentativo della Roma, parlo di Totti, magari abbia messo lì quella battuta sugli aiutini, anche forse per caricare ancora di più l'ambiente, i compagni, per caricare tutti? No, ma io credo che quella di Totti possa essere stata una battuta. Non posso pensare che un ragazzo così intelligente non sa, proprio anche per le vicissitudini personali di squadra, che gli arbitri italiani sono bravi, spesso li mettiamo in grande difficoltà noi dal punto di vista psicologico. Sono quelli che in Europa sbagliano molto di meno. Effettivamente ci può stare che poi la Juventus abbia avuto in questa prima parte di stagione qualche cosa in più rispetto agli altri, ma non certo perché qualcuno volesse passare il campionato, perché volesse avvantaggiare quella squadra. È stata un pochettino fortunata sotto l'aspetto degli episodi, ma la Juventus, se bisogna ricordarlo, è la squadra in assoluto più forte in Italia che c'è, quindi aiuti o non aiuti, sta lì perché sono bravi, sono una macchina da gol, sono degli animali da campo straordinari, e poi hanno un allenatore che non li fa respirare. Come li vede un attimo rilassati, li prende per le orecchie e li porta in campo. È una squadra troppo forte in questo momento per il nostro campionato. Ragione De Rossi, se non ci fosse stata questa Juventus, molto probabilmente le potenzialità della Roma per vincere qualcosa di importante sarebbero superiori. Però insomma, si confida sul fatto che la Juventus ha ancora un cammino di coppe europee che potrebbe creargli qualche problema, e l'unico vantaggio che ha la Roma è che non disputando le coppe può arrivare alla stagione e alle partite importanti magari più fresche dal punto di vista fisico. Certo, Pier. Comunque Ciccio, quella cosa lì a Roma la pensano in tanti, in tutta Italia la pensano in tanti, giusto per la Garcia. Totti l'ha espressa, l'aveva detto De Rossi qualche settimana prima, è il dibattito che c'è in tutti i bar d'Italia. Io pure a me non mi appassiona, a me degli arbitri, sapete che veramente ve ne frega pochissimo, Giovanni il testimone, e trovo che la cultura sportiva sia proprio, parta proprio dal non stare a fare 800 statistiche su chi sarà l'arbitro e cercare di pensare sempre positivo. Però insomma è inutile nascondersi, cioè a Roma questo concetto c'è sempre, e non soltanto a Roma questa idea c'è. Alessio, ma da fastidio dall'altra parte quando un giocatore importante come Totti due giorni dalla partita ritira fuori questo discorso? Ma sai, per me adesso Pierluigi diceva che è un discorso di Roma e anche fuori Roma, secondo me è un bel alibi importante per il giocatore, perché sanno comunque eventualmente di poi scaricare sull'arbitro questa certo. cosa. Io sono d'accordo con Antonio Conte quando dice che parla dal campo. Il campo sta dimostrando che la Juve in questo momento è più forte, negli anni è stata più forte, come c'è stato il periodo che era più forte l'Inter. Quindi sicuramente è stata una battuta inopportuna a due giorni della partita. Se c'era un motivo per ricaricare ancora di più la Juventus, secondo me questa battuta di Totti ha alzato ancora di più la carica che ha messo Antonio Conte, insomma ha preso questa frase di Totti come un boomerang forte per caricare ancora di più la sua squadra, per far pagare il campo, e il campo oggi ha dimostrato che la Juve ha qualcosa in più della Roma. No, e poi c'è un'altra cosa, c'è un altro passaggio secondo me molto interessante l'intervista di Totti, perché nel momento nel quale lui dice che dal punto di vista dei singoli la Roma può essere addirittura superiore, ma che la Juve ha più fame, secondo me dice una cosa, al di là del fatto che la Roma sta facendo una stagione incredibile e quindi merita 800 complimenti e non si discute, sta facendo, nessuno poteva immaginare onestamente che sarebbe arrivata a questa sfida con 41 punti, però sta secondo me dicendo una cosa vera, ed è la vera forza della Juve al di là di tutto, al di là della forza dei singoli, perché è ovvio che Tevez, Vidal e Pogba e Pirlo, tanto per fare qualche nome, sono giocatori fantastici, ma la cosa incredibile è l'intensità che questa squadra sta tenendo dall'inizio della stagione, e come una squadra che ha vinto comunque l'Italia gli ultimi due campionati continui ad essere così affamata, così vogliosa. Questo è veramente un marchio di fabbrica secondo me di Antonio Conte, in generale della storia bianconera, ma non sempre, perché poi sono state pure le eccezioni. Però è la cosa che secondo me balza all'occhio. Cioè, sì, è un grande complimento. Che potrebbe anche avere un po' di, no, un po' di pancia piena, perché comunque in Italia negli ultimi due anni ha dominato, continua ad avere invece un'incredibile energia, un'incredibile voglia, che è la caratteristica dei grandi in tutti gli sport. Può essere facile avere le motivazioni quando non hai ancora vinto molto, ma quando hai vinto tanto, continuare ad avere quelle motivazioni è da sottolineare. Facciamolo giocare a Tacchinardi e Graziani questa partita, ad esempio Ciccio, chi marca Pogba e Vidal? Ma io credo che non ci siano delle marcature fisse, ci sono dei giocatori che si marcheranno a zona, nei reparti. Io credo che tutte e due le squadre vogliono avere la loro personalità, vogliono portare avanti la loro filosofia di gioco. Credo che la Roma non si debba preoccupare troppo della qualità dei giocatori avversari, e credo che lo farà anche la Juventus. Io mi ricordo il mio maestro Liz Lidom, quando giocavamo sempre anche con le grandi squadre, lui magnificava sempre i giocatori avversari, e poi dopo alla fine diceva sempre una cosa che per noi era di fondamentale importanza: attenzione, per fare il risultato bisogna vedere come giochiamo noi, perché loro sono bravi, ma noi dobbiamo essere più forti di loro. Se siamo più forti di loro vinciamo, se no vincano loro. Ecco, io credo che non ci siano delle marcature fisse, c'è una filosofia di gioco in campo, che molto probabilmente potrebbe dare vantaggio prima, o all'una o all'altra. Sì, anche se lì in mezzo ci potrebbe essere quello che nel basket chiamano mismatch, soprattutto se De Rossi si abbassa, come capita spesso, sulla linea dei difensori, non lo so, tra Pjanic e Strootman mi sembra che manchi qualcosa dalla parte di Pjanic, forse nel contenere due giocatori che sono molto forti in inserimento. Alessio, magari mette Bradley e difatti, magari mette Bradley, difatti. Alessio, ti aspetti qualche novità? Abbiamo detto, indiscrezioni parlano del tridente pesante destro Totti e Gervinho insieme, quindi una Roma molto spregiudicata. Ti aspetti qualche novità, qualcosa di diverso dalla Roma, ed eventualmente in che cosa può sorprendere la Juventus? Io penso ci siano diverse chiavi di lettura, comunque una partita molto affascinante con grandi singoli in campo. Prima si parlava di De Rossi, io penso che De Rossi possa essere una chiave del gioco, non abbassarsi troppo, non lasciare magari troppo nelle linee Tevez, che è un giocatore che ti può far male, quindi aiutare questa difesa che onestamente la Roma sta facendo qualcosa di eccezionale. Si parla del centrocampo, io penso che una chiave possa essere Pogba, Pjanic, se giocasse Pjanic, che Pjanic è bravo a attaccare, meno a difendere. Strootman, Vidal, penso che sia uno dei duelli più belli di questo campionato. Penso che faccia giocare Florenzi, perché non voglia poi lasciare troppo spazio. Insomma, la Roma nelle ultime visite a Torino ha sempre beccato tra virgolette legnate, e quindi secondo me Florenzi è un giocatore che può fare le due fasi. Penso che per la Juve sia fondamentale Pogba e Tevez, e nella Roma penso che il giocatore che possa dare tremendamente fastidio, visto che la Juve attacca con tanti giocatori, sia Gervinho, che c'ha uno strappo di 30-40 metri che può, la Juve ti darà campo e può farti male. Quindi ci sono tantissimi duelli molto interessanti, molto belli, ed è secondo me, spero, una bella partita per uno sport, per il calcio italiano, perché sono due squadre con dei singoli molto molto forti. Sì, di sicuro la Roma ha qualcosa per fare male alla Juventus. Grazie Alessio. Ciao, un saluto a tutti. Buon grazie ad Alessio Tacchinardi, grazie a Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, alla prossima. Ciao, un abbraccio a te, un abbraccio a Pierluigi. Pier, torniamo subito. 800 24 00 24. Mi ha fatto arrabbiare l'arbitro, perché ieri ha sospeso la partita perché era dangerous per i calciatori. Oggi tutto un tratto non è più dangerous. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Barcellona ha vinto 4-0 contro l'Elche con tripletta di Sanchez e gol di Pedro. La Fiorentina mezz'ora è ferma sullo 0-0 in casa contro il Livorno. Non una bellissima partita. No. Pier, ti faccio sentire la cosa più bella di questa domenica aspettando Juventus-Roma? Vai. Lo tito. Mattia Sarsa che fa qua causa contro Odizio, Caio cose. No, lo dito vuole il rispetto delle regole. Voi sapete, io non ho mai licenziato nessuno, mai. Anche quando fu sollevato dall'incarico Ballardini, fu fatto su sua espressa richiesta. Non rinnego quello che ho detto in passato, era sulla base dell'approccio che io ho avuto nella scelta all'epoca, che era una scelta basata su alcuni principi, su alcuni valori, che oggi purtroppo, ahimè, sono venuti meno. Bisognerebbe ricorrere all'etologia in questo caso, che potrebbe dare tante spiegazioni. E io, credete, cambierò questo sistema, perché non è pensabile. L'allenatore è il fulcro del core business di una società di calcio. Non è un dipendente qualsiasi, è colui a cui è stato demandato la gestione del patrimonio della società. Di presidente sopporta epiteti, cose, cioè c'era solo uno, Claudio Lodito. Ma io appartengo a un'altra categoria di persone, perché a me piacciono le sfide. Io, se fossi stato io al posto della persona, avrei detto: guardi presidente, sto trattando con Tizio e Caio, decida lei quello che fare. E io vi garantisco che l'avrei tenuto, o comunque non sarebbe sorto neanche un problema di contenzioso tra la persona. Caro Pier, bisognerebbe ricorrere all'etologia. che è la scienza che studia il comportamento degli animali, lo diciamo, beh, a parte che siamo tutti animali, eh? Sì, e quindi però, diciamo, l'etologia tendenzialmente studia il comportamento degli animali intesi come cavalli, cani, criceti, eccetera. Che cosa vuoi che ti dica? C'è tutto lo dito in questo. A me quello che un po' dispiace, vedendola ovviamente da fuori, è che comunque un tipo di rapporto è un tipo di partnership che è stato anche vincente, perché insomma, non va dimenticato che la Lazio con Petkovic si è tolto una delle soddisfazioni più grandi della sua storia recente, anzi dal punto di vista almeno dei tifosi credo la sensazione più bella, la soddisfazione più bella degli ultimi anni, che sia finita così, che sia finita con le carte bollate, con gli avvocati, insomma, mi sembra... Sì, fuori di scherzo, quello che abbiamo fatto sentire era un estratto, ma davvero un estratto, dalla lunghissima conferenza stampa di oggi. Lo Tito ha presentato Reia, che a sua volta si è presentato, ha detto: sono tornato a casa, è evidente che c'è qualcosa che non va, perché questa squadra nel 2013 ha viaggiato praticamente a un punto di media per partita, al di là della vittoria in Coppa Italia. E poi Lo Tito ha provato a spiegare la situazione, ha detto in sostanza: mi ero fidato di Petkovic, che mi aveva detto che non c'era nulla per il momento con la federazione svizzera, mi ha tradito, e rileggendo cosa è successo dopo ha detto: mi faccio domande anche su alcuni errori, alcuni moduli, alcune partite perse male, insomma sostanzialmente ha detto Petkovic tra le righe, non aveva più la testa su questa squadra, probabilmente gradiva farsi cacciare per poi preparare al meglio lo sbarco nella nazionale svizzera. Ora io non lo so, però Petkovic ve l'abbiamo fatto sentire, scusate Lo Tito, ve l'abbiamo fatto sentire, e questo è Walter dalla provincia di Alessandria. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Prego. Sono Walter, sono in viaggio verso lo Juventus Stadium. Sì. Volevo dire, sicuramente sono convinto che questa sera sarà una gran bella partita, forse la più bella di tutto il campionato, perché ci sono in campo due grandi squadre, la Juve, non lo dico da juventino, ma credo, come sotto gli occhi di tutti, è più forte, perché ha anche più anni di gruppo. E volevo farvi una domanda. Io il Marchisio in panchina, io non so, vorrei che Conte trovasse il modo di far giocare anche Marchisio. Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal. Sacrificherei a Samoa per far giocare Marchisio, perché, credo 4-3-1-2 Pier. Secondo me se 4-3-1-2, cioè, giocando a 4 succede esattamente questo, che Chiellini a quel punto scala a sinistra, a Samoa va in panchina, tre centrocampisti con Babidal e Pirlo e Marchisio dietro le due punte. Il modulo c'è per questo tipo di soluzione, solo che La sensazione è che la Juve a tre abbia una sicurezza e ormai dei meccanismi talmente collaudati che almeno in Italia funzionano. Non so se l'ascoltatore vuole, se no volevo dire una cosa, che sentendolo parlare, io sono d'accordissimo con quello che lui dice, no? Cioè che la differenza tra queste due squadre in questo momento, anche a me sembra, nell'esperienza, e secondo me ieri Conte ha fatto implicitamente un grande complimento alla Roma, perché quando ha parlato del percorso della Roma di quest'anno come quello della sua prima Juve, secondo me ha fatto un complimento, e secondo me ha detto una cosa che è assolutamente vera, cioè la sensazione è che Garcia abbia fatto su questa squadra un lavoro molto simile a quello che fece Conte il primo anno, con un cambio completo di mentalità, un cambio completo di individualità, molta più gente che fa prestazione rispetto all'anno prima, cioè è veramente l'anno zero della Roma. Poi quell'anno lì sappiamo che la Juve riuscì addirittura a vincere il campionato in rimonta nella seconda parte della stagione, perché al Milan successe di tutto, al di là della polemica sul gol di Montari, su Catania, però voglio dire, il Milan ebbe tantissimi problemi di infortuni, la Juve ne approfittò, ma in realtà se guardiamo i numeri di quella stagione lì, la Juve fece un sacco di pareggi nella prima parte del campionato. Ora bisognerà capire se quest'anno succederà la stessa cosa, se la Roma lieviterà nel girone di ritorno come la Juve di quell'anno, e se la Juve avrà dei cedimenti come il Milan di quella stagione. Però secondo me il parallelismo è assolutamente corretto. Intanto il collega Massimo Cecchini della Gazzetta dello Sport su Twitter: la formazione della Roma, De Santis, Maicon, Benatia, Castane, Dodò in difesa, Pjanic, De Rossi, Strootman, Ljajic, Totti, Gervinho. Quindi una formazione diversa dalle indiscrezioni che filtravano in queste ore. Sinceramente, qua di indiscrezioni ne sono 57 diverse. Totti destro, a me sorprenderebbe, Totti è destro in campo dal primo minuto, mi sorprenderebbe molto, perché secondo me è un rischio in una situazione come questa per la Roma, e perché comunque Totti destro, comunque sono due giocatori che teoricamente occupano la stessa casella, e quindi è chiaro che è un'ottima notizia per la Roma che destro si sia sbloccato e sia tornato, però in assoluto a nessuno dei due puoi chiedere di fare l'attaccante esterno, perché destro significa che lo fai giocare più lontano dalla porta e quindi gli togli la possibilità di essere pericoloso. Sì, sarebbe sicuramente un azzardo, però Garcia ieri ha dato dei segnali per cui in realtà la possibilità resta aperta. C'è già Raffaele Auriemma, che saluto, ciao Raffaele. Raffaele, buonasera. Stavo quasi per scrivere un tweet insieme a Parco anche nel pomeriggio tardo. Poesia. Dopo aver sentito Lotito, questa è poesia. Raffaele. Auriemma, lo sai che è l'unico napoletano a cui non piace il capitone? È l'unico napoletano a cui non piace il capitone. L'unico non credo, però siamo in pochi, ma ci siamo. Stanno togliendo la cittadinanza, è una cosa gravissima. Una minoranza silenziosa. Anzi, è una forma di conversione verso un tipo di alimentazione diversa. Per esempio, stiamo provando a far viaggiare il cacio e pepe, che invece per lui ci parlo è davvero un esteta di questo piatto. Raffaele, con che occhi questa sera davanti alla televisione a vedere Juventus-Roma, immagino, davanti alla televisione? No, con gli occhi di chi ama il gioco del calcio e spera di vedere una bella partita, perché il Napoli è fuori dalla competizione scudetto quest'anno. Quindi non c'è un risultato che fa comodo al Napoli? Ma ovviamente se dovesse la Roma fermare la Juventus potrebbe esserci uno spiraglio, ma poi dovrà essere compito del Napoli riuscire a provare a rimontare, perché tu puoi fare tutti i conti che vuoi sulle altre, ma se il Napoli non vince le partite catalane contro il Sassuolo, il Parma e l'Udinese, poi davvero sperare ormai non serve più a nulla, per cui l'auspicio è che, come ha detto Rafa Benitez, questo 2014 possa portare un Napoli più concreto, perché giustamente essendo lui uno che punta soprattutto a fare un gol in più, se ne sbagli tanti lì davanti, poi le altre ti riacciuffano. Poi si vedrà, innanzitutto capiremo dal mercato se il Napoli intende ancora lottare per lo scudetto, inseguire la Roma e la Juventus, oppure se si accontenterà di un posto Champions, che non è neanche tanto poco. Però sono un po' tradito, Raffaele, devo dire. Perché, sì, c'è la speranziella sotto. Perché lui poteva fare pure un ragionamento in bene, questa è qua la macchina della verità. Tutto il primo pensiero è stato certo che se la Roma fermasse la Juve ci sarebbe lo spiraglio. Allo stesso modo si può dire certo, se la Juve battesse la Roma il Napoli si potrebbe avvicinare al secondo posto. Vuol dire che evidentemente, ma fai benissimo giustamente a crederci ancora, mancano talmente tante partite che insomma giustamente il Napoli deve crederci. Io poi penso realisticamente che la lotta sarà più per il secondo posto, però è giusto, no, conservare questo tipo di situazione, soprattutto perché poi il mercato dovrebbe portare un miglioramento della rosa abbastanza significativo. Sì, io continuo a ritenere bicchiere mezzo pieno questa metà stagione del Napoli, secondo me lo dicono anche i numeri, le statistiche, che non spiegano tutto, però dicono molto. Mi faccio sentire Benitez oggi. Benitez. Questi giocatori che non sono convocati oggi, qualcuno sta migliorando chiaramente, ma ancora manca un po', e per prudenza preferiamo aspettare e vedere con più allenamenti si sono appunto, no? Marek può essere uno di questi giocatori. Il rischio nel suo infortunio è che si ha una botta, un'altra volta siamo in difficoltà, e lui si allena, lo fa tutto bene, ma è una partita diversa perché non possiamo controllare. Abbiamo deciso che lui sembra bene, si allena bene, ma è meglio aspettare ancora un po', e per essere sicuro 100% che tutto è guarito, e il rischio sempre sarà minore, no? Raffaele, a che punto è Hamsik? Quanto manca a rivederlo in campo? Ma secondo me poteva esserci già domani, però come ha spiegato Rafa Benitez è stato un fatto di prudenza, direi anche estrema, perché essendo un infortunio parecchio delicato, perché non è nulla di grave, ma sono quelle cose che lasciano anche immaginare che di lì in avanti con un altro colpo lì in quella zona si possa addirittura fratturare quell'ossicino del piede, quindi meglio tenerselo cautelato, anche perché ci sarà un solo gennaio, ma anche febbraio, penso, gli impegni, comincia la Coppa Italia, poi dipenderà l'Europa League, e Amsic, che è mancato già tanto al Napoli, fortunatamente ce ne siamo accorti poco, perché se non sbaglio il Napoli ha 5 punti in più dello scorso campionato, quindi sì, le famose statistiche di cui parlavo prima, il famoso bicchiere mezzo pieno. Sì, però poteva essere ancora un po' più pieno, Giovanni, sì, in quelle tre partite casalinghe invece di raccogliere due punti ne avesse prese qualcuno in più col Sassuolo, penso che tutti possano sperare, mi riferisco ai tifosi del Napoli, che ci sia una vittoria. Lo stesso contro l'Udinese, che non è certamente una formazione che può impensierire il Napoli sul piano della qualità tecnica. Col Parma il pareggio, ecco, può essere un... Sì, sono sicuramente punti buttati via. Prima di salutarti, comunque ti sei tradito, c'è la speranza che questa sera succeda qualcosa che rimette in gioco il Napoli. Insieme a Gonalon chi arriva? Io so che tu sei autore di una campagna perché il Napoli non prenda Antonelli, che secondo te in questo momento non serve. Insieme a Gonalon chi arriva? Insieme a Gonalon, secondo me arriverà un difensore centrale di grande esperienza. Sarà un culo? A proposito... Non credo, no, costa troppo per quello che vale oggi in Kourou. Secondo me il Napoli non smetterà di pensare a Vermaelen finché sarà possibile, perché è uno di quelli che veramente ti fa fare il salto di qualità. Gonalon rappresentava un'emergenza, perché il Napoli ha bisogno di un elemento in più a centrocampo, avendo soltanto tre pezzi, e quindi se ce n'è uno che si infortuna devi giocare sempre con gli stessi due. Mentre in difesa puoi ancora aspettare un pochino e capire se Vermaelen può essere liberato dall'Arsenal, altrimenti il Napoli il salto di qualità non lo fa. Sì, ha bisogno dietro sicuramente di qualcuno che faccia il titolare. Non è che ho fatto campagne contro Antonelli. No, però sei tra quelli che in tempi non sospetti, già da qualche settimana, sostiene che esatto, un esterno al Napoli non serve. Campagna in questo senso, per carità. Tra l'altro con le caratteristiche di Antonelli. Serve sicuramente più centrale e onestamente forse... c'è stata un po' una sovravvalutazione, lo dico perfetto, sia di Brito che di Fernandez, che sono due buoni giocatori, ma che non mi sembra che abbiano dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra, cosa che Napoli vuole essere. Poi su quell'altro giocatore io raccomando la pronuncia alla francese, che può essere un culo, sì, perché me ci perché, leva, ecco. Perché sì. sennò corriamo dei rischi. Bene, per questo siccome ho fatto Inter Marsiglia due anni fa, quello del 2-1 lì con rigore di Mazzini al 93esimo, della grande delusione, insomma, che c'era, sono problemi che il telecronista si pone, no? Che 90 minuti non è facile da gestire. Hai letto che il Milan oggi ha specificato come si pronuncia, sì. Kesche Onda. Sì. Sei pronto? Io sono, perché a questo punto non saremmo dovuti a dire Onda e lo dirò anch'io, però io sono abbastanza contrario alla pronuncia iper esotica, nel senso che delle volte ci sono, mi ricordo il nostro amico Stromberg, che qualcuno chiama Stromberi, sì, cioè, o Göteborg, per Göteborg, come no. Ciao Raffaele. Ciao Giovanni, che Luigi un abbraccio, ci vediamo domani. Viva il capitone. Traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24, avete ancora una decina di minuti per mandare il vostro pronostico di Juventus-Roma. Chi indovina domani alle 14 in apertura a tutti convocati, perché Pier, lo ricordiamo, domani facciamo gli straordinari dalle 14 alle 15 per tutti i commenti su Juventus-Roma, avremo grandi firme del giornalismo, vi faremo sentire le voci, e poi dalle 17 alle 18.30 per il resto della 18esima giornata, e vi porteremo fino al via di Lazio-Inter. Filippo dalla provincia di Asti, intanto è finito il primo tempo, Fiorentina 0 Livorno 0, Filippo buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Volevo dire che prima Pardo ha detto, riportando la battuta di Totti, che si spiega la forza della Juve con la fame e col gruppo. Sì. Però secondo me la vera forza della Juve è leggere i singoli uno per uno, e si vede che sono un altro livello rispetto a quelli della Roma. Io non so se siano di un altro livello, Filippo, sono sicuro anche che non è vero che la Roma, presa singolarmente giocatore per giocatore, sia superiore in questo momento alla Juventus, però ad esempio un giocatore come Gervinho la Juventus non ce l'ha e credo farebbe molto comodo, Filippo. Ma io credo che invece sulla fascia Bellicksteiner che fa praticamente uno dei migliori d'Europa, credo. E Asamoah dall'altra parte è fantastico. Sì, il Cervinio è un buon giocatore, per carità, la Roma è forte, ma non credo che sta Juve abbia poco da chiedere, una bella squadra. Pier? Ma per me Vidal già oggi e Pogba in prospettiva sono i due migliori centrocampisti che ci sono in giro in Europa, insomma, magari me ne scordo qualcuno, ma sono nella categoria dei grandissimi. La differenza secondo me magari è ancora di più nelle seconde linee, nel senso, mi sembra che comunque la Juve abbia più soluzioni complessivamente. Però insomma io non è... Secondo me non toglie nulla, anzi aggiunge quella considerazione al lavoro che sta facendo Conte, perché la fame è stato veramente un marchio di fabbrica di questa squadra negli ultimi 2 anni e mezzo e questa cosa si è vista, secondo me, adesso qui scrivo anche la radio per essere utile, e questa cosa secondo me quindi è un'ulteriore dimostrazione della bontà del lavoro che è stato fatto. È mancata l'Europa, questo chiaramente non può essere considerato un dettaglio, però è anche vero che l'Europa ha logiche diverse, più sottili, perché non ci sono 38 partite nelle quali 3 giochi, ma ci sono degli episodi che alla fine contano. Sì, tu sbagli la partita in casa col Galatasaray, cioè, sbagli la partita con i danesi. È stata impronosticabile la vicenda, su questo non c'è discussione. Sì, certamente. Alessandro da Pescara, 800 24 00 24. Pronto? Sì, però abbassi la radio, Alessandro, prego. Sì, senta, una cortesia, volevo chiedere, l'Inter, pur essendo con tutti i guai che ha, con tutte le, diciamo, le contraddizioni, è una delle squadre che ha segnato di più e quindi evidentemente ha una costanza di presenza in area notevole. Mi spiega qualche esperto come mai da maggio scorso non è mai stato dato a suo favore un calcio di rigore, compreso quello di domenica scorsa, che l'avrebbero dato anche su Marte? Pensi che a una squadra che dominava come il Milan di Capello non fu dato un rigore per quante settimane, Pier? Oltre 50, non ricordo. Una cinquantina. Io credo, poi ti faccio rispondere, credo però, Alessandro, che sul dato dei gol fatti dell'Inter pesino i 7 gol segnati col Sassuolo. Detto questo, io l'ho detto con Sandro Mazzola un'oretta fa, secondo me il giudizio della prima metà della stagione dell'Inter è positivo. Sandro dava un 5,5, secondo me si può anche andare abbondantemente sopra la sufficienza, e certamente l'Inter ha avuto e ha trovato una sua fisionomia. Detto questo, se Milito non dimostra in fretta di aver recuperato, ho l'impressione che sul mercato si andrà a toccare anche il reparto d'attacco. Sì, guarda, io penso che il giudizio sulla stagione sia positivo. Dobbiamo riassumere con un voto, io un 6,5-7 lo do all'Inter di Mazzarri fin qui. Diciamo che c'è stata sicuramente una partenza che aveva autorizzato un ottimismo che poi le partite successive non hanno confermato, perché insomma la prestazione ad esempio contro la Juve all'inizio di stagione fu una prestazione importante, pesante, che dava la sensazione che questa squadra fosse già a un livello molto alto. La verità è che ci sono dei limiti tecnici che sono enormi, o comunque non sono enormi, ho esagerato, ma ci sono, quindi c'è una distanza rispetto sicuramente alla Juve, sicuramente alla Roma e secondo me anche rispetto al Napoli. E adesso bisognerà capire che mercato sarà. I segnali non sono così incoraggianti, perché chi si aspettava un Toir scatenato sul mercato, insomma, per ora mi pare che sia stato smentito. E poi nelle ultime giornate sicuramente abbiamo visto delle cose, degli errori difensivi, di concentrazione, di atteggiamento poco mazzarriani. Questo sì, cioè, le squadre di Mazzarri storicamente sono squadre che comunque sono molto attente, ben messe in campo, che fanno pochi errori. Delle ultime partite ci sono stati tanti errori. Sì, più simili all'Inter un po' spensierata dell'anno scorso. Ecco, il punto di partenza, non dimentichiamocelo, è stati 5 mesi del 2013 di Stramaccioni. Insomma, se Mazzarri bisogna secondo me riconoscere un buon lavoro fatto fin qui, senza dubbio. Sentiamolo Mazzarri sul mercato. Abbiamo pazienza, il mercato me ne parli. Milito è un valore aggiunto comunque, sarà fatto già quest'estate quando siamo partiti. Milito era infortunato, ma nella mia testa volava la speranza, e voi vi ho sempre aggiornato sui miei pensieri, ho sempre sperato di averlo a disposizione. Un giocatore come lui, o che parte dall'inizio, o che possa averlo a disposizione a partita in corso, è un giocatore importante per noi. Il resto, ripeto, sono considerazioni che non voglio fare qui, perché questo gennaio non vedo l'ora che finisca, perché abbiamo 4 partite in gennaio, e se tutti i giorni si parla di di chi arriva, di chi deve andare via. Io come allenatore ho solo la preoccupazione che la squadra venga distratta e non ce lo possiamo permettere. Saluto Massimiliano Nerozzi, inviato della Stampa a Torino. Ciao Massimiliano. Ciao, buonasera a voi. Allora, proviamo a mettere insieme le ultime su questo Juventus-Roma. Abbiamo detto Conte dovrebbe alla fine aver scelto la tradizione, il 3-5-2, confermi? Sì, dalla riunione tecnica del 18 sembra così, insomma. Quindi gioca, gioca Pogba, va in panchina Marchisio. Chiedeva prima un amico se non esiste la possibilità di valorizzarlo Marchisio in questa Juventus. Dovresti cambiare modulo, cosa che Conte ha fatto, se ricorderete, a fine scorso campionato col 3-5-1-1, diciamo, però in prospettiva non è un assetto che Conte vede, anzi vederebbe un 4-3-3 o il suo 4-2-4, ma la vedo difficile, insomma, la collocazione adesso di Marchisio se Pogba, Pirlo e Vidal giocano come giocano. Ma questa prova che ha fatto questa mattina con Marchisio dietro le due punte, come la dobbiamo classificare? No, guarda, io la lascio tra le possibilità finché non vedo la formazione ufficiale, perché non è la prima volta che Conte l'anno scorso, prima del Milan, cambiò sul Puma che portava allo stadio sostanzialmente, però penso che la più probabile sia il 3-5-2, appunto. È una variante che magari ci può stare a partita in corso. Potrebbe essere una variante a partita in corso. Direi di sì, salvo essere smentito fra 20 minuti, insomma, mi darete dell'incompetente. No, figurati, Pierre. No, ma Nero ha ragione. Io penso che questo modulo da Nero e Nerozzi, ovviamente, lo dico, che poi noi siamo sempre colloquiali, un po' di viaggi insieme. Però no, credo che sia il modulo che gli dà assolutamente più garanzie, soprattutto nelle grandi partite. C'è stata l'ambizione di giocare a 4, soprattutto in Europa. È chiaro che è un tipo di pensiero forte, no? Tendenzialmente, anche se poi non deve diventare schematico il discorso fra difesa a 4 e difesa a 3. Io non credo ai dogmi assoluti, però insomma, nelle prerogative di una grande squadra c'è anche la possibilità di provare a cambiare faccia, e la Juve l'ha fatto in Europa. Però questo mi sembra il modulo che dà più garanzie, che dà più copertura, che esalta al meglio le caratteristiche della difesa, che poi è uno dei punti di forza. E semplicemente è successo che in questi ultimi mesi Pogba ha superato Marchisio, ha messo la treccia. Marchisio rimane un ottimo giocatore, assolutamente, però Pogba sta facendo cose incredibili. Intanto riunione tecnica in corso per la Roma. Che Roma ti aspetti, Massimiliano? Qualche indiscrezione parlava del tridente con Destro. Negli ultimi minuti paiono risalite le quotazioni di Ljajic insieme a Gervinho e Totti. Tu che Roma ti aspetti? Io mi aspettavo con Florenzi, ti dico la verità. Penso che Conte, conoscendo e sapendo cosa ha detto i giocatori in settimana, tifi per una Roma con Destro o con Ljajic, cioè con tre punte. Perché sarebbe una Roma più spensierata, l'abbiamo. E lui teme, ma all'inizio del campionato, che si ha fatto capire anche alcune interviste, per carità, ognuno il suo calcio, ma che a Roma giochi molto molto all'italiana, cioè difesa forte sulla tre quarti e contropiede sostanzialmente. E con tre punte forse la Juve avrebbe un po' più di campo. Certamente. Pier, abbiamo un minuto. Sì, io ti dico, per me la Roma che anch'io mi aspettavo, mi aspetto tendenzialmente per caratteristiche, vedendola da esterno. Beh, insomma, Florenzi è un giocatore importantissimo per questa squadra, perché è un giocatore che ti dà, se giochi 4-3-3, è un giocatore che ti dà una somma di contributo tra la fase offensiva e la fase difensiva impressionante. E quindi nella partita più difficile dell'anno, sul campo della squadra più forte, dell'avversario più forte, se c'è una volta nella quale ci può stare questo tipo di ragionamento, visto che ci ha giocato anche in altre circostanze, questo tipo di soluzione mi sembra, venendo dall'esterno, mi sembra la più logica. Però insomma, dobbiamo pazientare ancora una mezz'oretta per la formazione. Ciao Pier. Ciao ragazzi. Ciao Pier, a domani. Saluto anche Massimiliano Nerozzi. Ciao Massimiliano, buona partita. Noi ci fermiamo qui, caduta la linea, ma avevamo finito l'appuntamento, lo ripeto, domani alle 14, dalle 14 alle 15 per tutti i commenti del dopo partita, poi ancora in diretta dalle 17 alle 18.30. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Fabio Cantadori che si sono alternati in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Buon Juventus Roma a tutti.